si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Eccoci di nuovo insieme, Carlo, buongiorno. Buongiorno Laura. Tutto bene? Benissimo, assolutamente, anzi volevo ringraziare tutti quelli che sui social, sia quelli di Si Può Fare, sia quelli miei personali, Facebook e Instagram, ci scrivono e commentano anche le cose che diciamo durante sì, il sabato. Sì, tra l'altro, esatto, ieri ho avuto anche qualche piccolo scambio con qualcuno che si interessava, non so, dell'app per esempio dei rifiuti, non funziona, mi funziona, dove funziona, insomma è bello anche interagire su queste cose. E poi ci sono tantissimi che hanno continuato a mandare anche i nomi per il pianeta famosissimo. Verissimo, lo ricordiamo forse che il pianeta abitabile più vicino e simile alla Terra, vicino si fa per dire, perché poi abbiamo visto che le cifre insomma non è che sono percorribili. Abbiamo visto che ci vogliono un miliardo di anni forse. Miliardo di anni se si va in bicicletta, però effettivamente forse era anche un calcolo non più utili, ecco. Circa 101 anni luce. Comunque io ho qua tutto un elenco, quando poi abbiamo un attimo, come si dice, certo, le rileggiamo insieme e poi pensavo di pubblicarli, vedere se riusciamo a smuovere qualcosa, a dargli un nome migliore rispetto ma intanto a... intanto diciamo che possono anche oggi continuare sia a telefonare per proporre il proprio nome, sia a mandarci dei messaggi con i propri nomi, quindi secondo me è molto corretto che dopo dai una rapida letta di quelli di sabato, di modo che le persone non doppino dei nomi, oppure potremmo anche iniziare proprio con la classifica, nel senso che se doppio i nomi iniziamo a avere alcuni nomi con più di un voto. Ah beh, questa sarebbe un'idea, questa è una buona idea. Comunque attualmente il pianeta si chiama TOI 700D. A noi non piaceva, non ci dava l'idea per andare a comprare un biglietto, che uno dice senta, mi può dare un Milano TOI 700D? Ecco, allora volevamo altri nomi. Oggi comunque si concorre per indovinare il personaggio della settimana, si chiama l'800 24 0024, ci si prenota e ovviamente bisogna avere in mente un personaggio che abbia fatto qualcosa durante la settimana, comunque relativo a questa settimana. Esatto, ci sia una notizia legata a lui di questa settimana. Noi controlliamo e soprattutto ve la chiediamo, quindi qualunque personaggio voi decidiate di citare, preparatevi almeno la notizia. Uomo, donna, cosa, insomma ricordiamo sempre che noi diciamo personaggio, ma non vuol dire necessariamente che si tratti di un uomo, appunto, perché è al maschile. Poi c'è il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Hai trovato qualche buona notizia in giro nelle ultime ore? Hai qualcosa che ci volevi? Sì, guarda, sarà che ultimamente guardo moltissime docuserie in TV su Sky, Netflix, Amazon, probabilmente perché sto lavorando alla scrittura di un documentario in 6 puntate. E guardando tutti questi documentari mi sento di segnalarvi Giù le mani dai gattini, che sono 3 puntate di meno di un'ora ciascuna e le trovate su Netflix. Il titolo in inglese è Don't Fuck, con un po' di puntine, with Cats, Hunting an Internet Killer. Tradotto liberamente è a caccia di un killer nella rete, a pesca di un killer nella rete. E premetto che non è per tutti questo documentario, che devono interessarvi intanto i documentari, poi i gialli, il crime e anche avere un po' di stomaco. Ci tengo a segnalarlo soprattutto per un motivo, perché io quando avevo letto il titolo non mi aveva ispirato per nulla, ho detto no, non mi interessa una cosa sui gattini. Quando poi ho saputo che si tratta della storia di un ragazzo che fa dei video in cui sevizia e uccide dei gattini, ho detto ok, non fa per me, grazie tante, non lo vedrò mai, e ho dato doppia razione di umido ai miei 2 gatti anche solo per farmi perdonare di aver pensato. Bravissima. Però adesso invece che l'ho visto, sono davvero molto contento di averlo visto e credo che sia importante. Intanto non si vedono le scene peggiori delle uccisioni dei gattini e poi soprattutto non si tratta solo di gattini per 3 ore, è tutto molto più agghiacciante e piuttosto sconvolgente. Non vi svelo né rovino nulla, se volete vederlo, mi sento solamente di dire che uno dei temi centrali alla fine è l'uso di internet. Indagando su come possa essere splendido, utile, risolutivo in certi casi, ma orribile, tremendo, il peggior schifo possibile in certi altri. E Scandaglia questo tema in profondità. Forse a un certo punto addirittura suggerisce che in fondo queste due forze avverse possano essere una l'antidoto dell'altra. Rimarrete con tantissimi dubbi e interrogativi, non sulla vicenda che viene molto ben raccontata, diciamo più dubbi di tipo etico, che renderanno evidente una sola cosa: ridurre la questione a internet fa schifo oppure internet è tutto è davvero stupido e poco utile. Mi piace pensare che si arriverà un momento in cui, quando si discuterà della bontà o meno di internet, dei social, della rete, la complessità di questo documentario sarà compresa in qualsiasi dibattito, perché l'unico modo per non farsi schiacciare da tutto ciò è educarci all'uso della tecnologia. E si può fare. E si può fare. E chi invece non volesse passare la giornata in casa o non avesse abbastanza stomaco per affrontare, giusto, l'argomento in questa domenica di gennaio, beh, potrebbe farsi un giro, magari se è nella zona, a una particolare pista di pattinaggio. Questa è invece la notizia che ti porto io. Una pista di pattinaggio nella quale si pattina gratis a patto di arrivare con mezzi non inquinanti, quindi coi pattini direttamente, o coi pattini o con la bici o a piedi, o al limite si potrebbe accettare l'autobus. Ma ci dice di più Claudio Armati. Buongiorno. Buongiorno. Che è titolare di Pattini e Pareti, è un'iniziativa che si svolge a Ponteranica, quindi siamo in provincia di Bergamo. Come funziona? Ma funziona partendo da un concetto: noi abbiamo una pista di pattinaggio che è distante 500 metri da una fermata del trasporto pubblico, e siccome noi siamo un'associazione che ha per scopo l'attività legata alla montagna, alla neve, al ghiaccio, all'arrampicata, ma siamo anche un'associazione che vuole tutelare l'ambiente, abbiamo pensato di dare un contributo in questa direzione, quindi premiando coloro che in qualche modo fanno un piccolo sacrificio e arrivano o con mezzi pubblici o in bicicletta alla pista di pattinaggio, e in questo caso entrano gratis. E come fanno a dimostrarvelo però? Perché non è facile, insomma, come fate a cercare di evitare le truffe? Esatto. Allora, la dimostrazione è molto semplice. Noi controlliamo il biglietto che hanno utilizzato del pullman. Il trasporto pubblico da noi arriva soltanto con due linee, quindi devono avere obliterato quel biglietto in quell'orario in cui arrivano, con una di quelle due linee che arrivano a Ponteranica. In bicicletta invece facciamo la foto della bicicletta e la teniamo, nel senso che non vogliamo che venga utilizzato da due o tre persone la stessa bicicletta. Certo. E poi c'è anche sulla base, alla base, un fondo di fiducia verso il cittadino, verso il ragazzo che viene da noi o i genitori in quelle condizioni. No, certo, bisogna un po' fidarsi, questo senz'altro. Però, anche perché insomma, grandi truffatori, immagino, di gente che finge di essere arrivata a piedi. Ma per esempio, se uno arriva a piedi va bene, ovviamente. No. Se arriva a piedi no, perché diciamo così, noi siamo nell'ambito. A piedi può arrivare anche dal parcheggio che è limitrofo, nel senso che non possiamo né controllare chi arriva a piedi. Deve usare un mezzo pubblico, diciamo un mezzo di comunicazione, diciamo, software. Ma se uno viene a piedi da casa, però questo bisognerà farlo entrare gratis. No, di Ponteranica, però è scuso. Ma se porta una foto ogni 100 metri, una foto di lui a piedi, nel senso che se vai con la macchina devi scendere, scatta la foto, togli la macchina, cancella con Photoshop, fai altri 100 metri, scendi, fai la foto. Insomma, però mi stai dando un'idea, perché potremmo anche considerare quelli che arrivano a piedi, magari con un percorso superiore, magari 2 chilometri, portando la traccia che possono rilevare dal telefonino. Potrebbe essere anche questa un'idea. Ecco. Così favoriamo addirittura la mobilità super dolce. E anche che arriva direttamente con i pattini, anche se temo che stiamo parlando di pattini su ghiaccio, giusto? Sì, quindi bisogna inondare tutta la strada, da casa propria fino a voi, sperare che vada sotto zero e poi arrivare direttamente con i pattini. È una stagione, diciamo così, che non va in questa direzione. Vero. Il eccetera, non siamo in questa direzione. Però i pattini a rotelle potrebbero essere anche questa indicazione. Ma tenga presente che noi pensavamo fosse una questione ideale, una provocazione. Invece nei primi 6 giorni dell'anno, da quando siamo partiti, 40 persone hanno utilizzato questi mezzi, che non è poco, insomma. non è un grandissimo contributo in termini di chilogrammi di CO2. No, invece lo è, guardi, se mi permette, io penso che lo sia soprattutto dal punto di vista educativo, che ha un valore gigantesco, anche se è come sempre difficile da misurare e difficile da monitorare, però credo che anche semplicemente parlarne, cioè dire guardate, si entra gratuitamente, quindi anche voi state facendo uno sforzo da parte vostra, e da parte del cittadino invece di dire ma sì, ma è a 500 metri che ho bisogno. Che bisogno c'è che io pigli la macchina? Ma noi d'altra parte almeno siamo convinti che per promuovere una mobilità dolce occorre pensare anche ad una premialità di chi lo certo. pigli, magari facendo pagare gli eventuali diciamo danni economici che l'associazione potrebbe avere a coloro che arrivano invece con tutte le comodità. Insomma, chi si sacrifica un po' fa l'interesse anche di tutti noi, no? Nel senso che molto giusto. L'aria più respirabile. Ma il monopattino vale? No, sì, quello elettrico potrebbe essere una buona idea. Certo. Ma voi siete in una zona, io non conosco, insomma, di collina, di pianura. No, noi siamo, Ponteranica è un comune limitrofo a Bergamo, fa parte okay. diciamo dell'area di Bergamo. Cioè, gli edifici sono senza soluzione di continuità dal comune di Bergamo a noi. E distiamo dal centro di Bergamo praticamente 7-8 km. Quindi se uno parte da Bergamo Alta col monopattino è tutta in discesa? Nell'ultimo pezzettino leggermente in salita, ma poca cosa. Tenga presente che noi siamo in una zona verde, bellissima, a pochi chilometri dalla città, con un microclima incredibile, per cui abbiamo circa 3-4 gradi in meno di temperatura rispetto al centro di Bergamo. Quindi un posto ideale. È per questo che abbiamo pensato di realizzare lì una pista di pattinaggio. È il posto più freddo della zona. Benissimo, allora buon proseguimento. Buon che dire, proseguimento. Oggi è domenica, quindi ci sono persone che potranno approfittare della giornata per venire da voi, ovviamente senza utilizzare l'auto e con la dimostrazione dell'aver percorso il tratto in esatto. autobus o in bicicletta. Anche perché chi viene in macchina paga doppio, non è vero, lo dicevo solamente per spaventare. Magari col vostro suggerimento anche a piedi. Giusto. Vi aspetto. Grazie mille. Grazie Claudio Armati. Arriveremo un po' tardi perché arriviamo a piedi da Milano. Ci mettiamo un po'. Allora, pattini e pareti. Esatto, visto dobbiamo cosa dare l'indizio. Dobbiamo dare l'indizio prima della viabilità. Diamo l'indizio prima della viabilità. Si tratta dell'indizio ovviamente per indovinare il personaggio della settimana che ha cambiato il mondo. Bellissimo indizio. Viabilità. Si può fare. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ricordo 824 0024 per indovinare il personaggio della settimana che abbiamo detto ha cambiato il mondo. Questo è il primo indizio. Abbiamo parlato di pattini poco fa, adesso parliamo di altre attività anche ricreative, ma nelle quali bisogna essere, diciamo, attenti e prudenti. Parliamo di giovani e locali notturni e l'antica questione del tornare a casa ubriachi, fare incidenti. Esatto. C'è una associazione. Creare dolore. C'è un'associazione a Milano che lavora nelle discoteche, nei locali notturni, che cerca un dialogo con i giovani, cerca di farli ragionare sulla necessità di avere responsabilità per sé e per gli altri. Questa associazione si chiama Ala Onlus e Vincenzo Cristiano, che è in collegamento con noi, ne è il presidente. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica e grazie per l'invito. Buongiorno. Grazie a lei per essere con noi in questa domenica mattina. Voi lavorate a questo progetto di prevenzione fin dal 1996, sì. Quindi sono tanti anni, quindi vuol dire tanta esperienza. Che cosa avete appreso, diciamo, stando appunto con i giovani in strada, davanti ai locali, parlando con loro? Guardi, devo dire che negli ultimi anni c'è una maggior consapevolezza da parte dei giovani nel mettersi al volante di un'automobile o di un motociclo, quindi c'è una maggiore consapevolezza e soprattutto negli ultimi 10 anni a Milano, ovviamente, dove operiamo, abbiamo visto che i giovani prendono, o perlomeno tutte le persone che fruiscono del divertimento notturno, cioè una buona fetta di queste persone utilizza o il trasporto pubblico o i taxi. 10 anni fa era quasi impensabile, nel senso erano pochissime persone che utilizzavano il taxi. Ma scusi, le chiedo subito una cosa, sì. Nel senso che sono molto contento che lei parli di maggior consapevolezza. Mi chiedo se poi effettivamente ci sono meno incidenti di 10 anni fa, perché dalle notizie che leggiamo gli incidenti sembrano tanti, tantissimi. Guardi, e terribili. Sì, purtroppo ci sono delle situazioni, soprattutto fuori. Parlo di Milano, soprattutto nelle provinciali, eccetera, perché gli spostamenti sono anche molto più ampi, eccetera. Però su Milano, dato che abbiamo fatto anche un lavoro ultimamente con la polizia locale, gli incidenti causati per guida in stato di ebbrezza ci sono, però ovviamente non hanno quella risonanza che magari, come è successo a Roma, come è successo in Alto Adige, eccetera. Devo dire che c'è una maggior consapevolezza, anche se il problema sussiste, e noi stiamo lavorando da anni per far sì che ci sia anche una possibilità di una governance, anche se difficile, della movida milanese. Come forse sarebbe? Dovete spostarvi anche da Milano, perché se mi sta dicendo che forse a Milano un pochino si è migliorata, forse tocca occuparsi anche del resto delle d'Italia. Città limitrofe anche, esatto, sì. ci sono anche altre realtà come la nostra, cioè nel senso, noi come Ala Milano operiamo molto su Milano, però certo, ci sono altri colleghi del terzo settore che operano su altre zone del territorio nazionale e della Lombardia. Devo dire che noi spingiamo molto in tutti questi anni, abbiamo fatto anche progetti europei con colleghi europei, eccetera, su 3 elementi fondamentali. Una maggior consapevolezza, quindi una relazione diretta con i giovani. Noi abbiamo un'equipe strutturata di educatori e psicologi per innalzare i fattori protettivi e avere una maggior responsabilità dalle proprie azioni. L'altro elemento chiave è la stretta sinergia con i gestori dei locali, perché sono degli imprenditori, fanno il loro business e sono i primi che hanno tutto l'interesse di non avere grossi problemi da riviste, schiamazzi, eccetera, e addirittura sono pochissimi che fanno una promozione rispetto agli alcolici in modo molto stressante da questo punto di vista. Perché ma ci racconta come funziona, nel senso che se non sbaglio io penso di avervi anche incontrato, essendo di Milano, essendo anziano, però insomma il 96 è un bel po' di tempo fa. Gioventù l'hai incontrati. Esatto. Se non sbaglio voi avete delle vostre postazioni o addirittura dei camper fuori dai locali. Sì, noi siamo partiti con i camper fuori dai locali. Quando ero giovane io, infatti. Esatto, quando eravamo più giovani. Tutti. Tutti. Ma adesso lavoriamo in stretta sinergia con il gestore dentro il locale. Quindi una collaborazione attiva con i gestori. E terza cosa, che credo che questo sia l'anello un po' il più debole, un maggior presidio sul territorio. Nel senso, mi spiego, cioè cercare di governare la cosiddetta movida non è una cosa semplice. Bisognerebbe far sì che tutti gli attori coinvolti, quindi le forze dell'ordine, il terzo settore, le istituzioni, l'ATS, si potesse ragionare con una programmazione ad ampio respiro, piuttosto che ragionare in chiave d'emergenza. Credo che il problema grosso che abbiamo come paese, parlo come italiano, è che siamo molto bravi nel gestire le emergenze, ma verissimo. Non l'ordinario, non e soprattutto a mantenerle delle emergenze, perché uno dice: ma il problema della movida, il problema dei rientri a casa dopo una serata in discoteca è un problema che esiste, direi, da sempre, da sempre. E non si capisce. E ogni volta che c'è un terribile incidente, allora ci si riaccendono, esatto, i fari. Quindi fari, siamo poi molto una settimana è finita la notizia. Ma le volevo chiedere una cosa: Come vengono recepite queste azioni? Cioè, io ricordo, parlo come sempre del 96, ma insomma, che solitamente quando esci dalla discoteca c'è qualcuno che ti dice: stai attento a come guidi. Non è esattamente il momento in cui uno è permeabile a questo tipo di sollecitazioni, anche se doverose. Non per niente entriamo dentro la discoteca e lavoriamo dentro la discoteca. Noi prima siamo partiti... Cioè ballate con i giovani e ballate con loro? Sì, no, abbiamo delle postazioni dentro in accordo con il gestore, perché prima eravamo partiti con avere l'unità mobile fuori. Certo. Ma dava quel problema lì. Dava quel problema, nel senso, tu intercetti i ragazzi che entrano, i giovani che entrano, e poi quando li intercetti all'uscita le condizioni sono abbastanza particolari. Certo. Invece abbiamo visto che funziona di più stando dentro. Funziona di più stando dentro, cercando di, e soprattutto devo dire che questa è una cosa molto positiva, ci sono alcune compagnie che hanno il guidatore designato, non so, tre amiche, una evita di bere perché sarà quella che spesso si sposta e accompagna. Sì, questo è un antico sistema che si è sempre usato, devo dire. Sì, altrimenti l'altro sistema, adesso dobbiamo salutarci perché tra poco c'è il giornale radio, però dicevo, sì, l'altro sistema, oltre a quello di designare uno, è di prendere una persona esterna, quindi appunto il tassista, il radiobus, l'autobus organizzato da gruppi che si muovono insieme. Le parole dette da una che è stata designata più volte a essere colei. No, onestamente no. No, perché ti pensavo, essendo tu responsabile, perché io ho il problema inverso invece, in realtà, perché io non ho la patente. Tu mi fai più responsabile di quanto io non ho la patente, quindi posso bere quanto voglio, diciamo. Ah, vedi. Però ne fa male. È vero. Va bene, grazie molte. Vincenzo Cristiano, presidente di Ala Onlus, Ala Milano Onlus, buon lavoro, buon proseguimento, un modello che può essere sicuramente esportato. Abbiamo in collegamento Fiorella da Bergamo, che vorrebbe dirci, secondo lei, qual è il personaggio della settimana. Buongiorno Fiorella. Buongiorno. Ci allora, dica. Secondo me è il nuovo pianeta che è stato scoperto questa settimana. Il nuovo pianeta. Il notaio è andato veloce. Però ci dica come si chiama questo nuovo pianeta. No, so che state facendo un sacco di trasmissioni, addirittura cercando il nome, sia voi alla radio che qualcuno alla televisione, che quindi un po' ognuno dà un po' la sua. Okay. Addirittura l'altro giorno qualcuno aveva dato una versione piemontese. Sì, certo, eravamo noi, non era la televisione. Eravate voi. Va bene, la ringraziamo moltissimo, non era quello, però siamo contenti di aver ricordato. Chiamateci anche per i nomi del pianeta, cioè che nome dare a questo pianeta che è abbastanza vicino. Torniamo dopo GR24. Si può fare. Si può fare, si può fare, si può fare. può fare. Cronache da un paese migliore. Ancora una buona giornata a tutti gli ascoltatori, da Laura Bettini e da Carlo Gabardini. Buona allora, domenica. Sono arrivate un po' di proposte ancora, cito soltanto l'ultima per il pianeta, no? Il pianeta Toy 700D, quello così lontano, così vicino alla Terra. Turan è l'ultima che è arrivata, è una dea etrusca. Così apprendo. Esatto, ma sbizzarritevi, mandateci i nomi, perché sennò ci tocca tenerci Toy 700D. Che non è granché, no. Però ricordo qualcheduno di quelli che sono arrivati ieri. Alcuni fanno riferimento diretto alla napoletanità di due dei ricercatori che l'hanno individuato. Quindi c'è Obabà, c'è Margherita, c'è Napulus o Napule, c'è Campania, ma sono arrivati anche tanti altri più ispirati, diciamo, come Pace, Cielo, Amore, Speranza, Gaia, ricorda Asimov. Poi c'era Iskander, un po' discutibile, perché è vero che c'è un cartone animato, ma insomma c'è anche il missile, quindi non è granché. Sirena, Partenope, ve ne ho detto qualcuno, ma c'è sempre in cima la top list, la piemontese Lasmestà. Lasmestè, che è giusto. Che è in realtà molto bello, perché è il nome che il pianeta dà a se stesso, cioè lasciatemi stare, avete già distrutto la Terra, non venite qua, anche se siamo vicini, non pensateci proprio di state venire. State benone là dove siete. Esatto, a disturbarmi. Comunque siamo ancora aperti alle vostre proposte e magari ne sentiremo un'altra, non lo so, se la nostra prossima ospite magari ha una idea. Giusto. La nostra ogni prossima tanto penso anche, chissà se quelli del pianeta Toy 700D anche lì magari c'è una radio e stanno facendo un quiz per trovare il nome al nostro pianeta che loro hanno chiamato BB469. Chi lo sa? Chissà come ci chiamano, esatto. Così, come ci vedono, come ci immaginano. Dicevo, la nostra prossima ospite in realtà è un ritorno, perché ci fa piacere ospitare di nuovo ai nostri microfoni, Si può fare, Federica Giannattasio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Amministratore buongiorno. Delegato di ITER Chimica, l'abbiamo conosciuta qualche mese fa quando le attribuimmo il premio L'altro pianeta per una sperimentazione di un asfalto molto speciale che veniva fatta anche nella zona di Milano dopo essere già stata fatta a Roma. Adesso si va oltre, perché questa sperimentazione arriva anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Quindi alzando l'asticella delle difficoltà, perché immaginiamo che lì atterrano gli aeroplani, passano gli aeroplani e quindi le sollecitazioni massima. Esatto, date all'asfalto siano pazzesche. Cosa c'era in questo asfalto? Le chiediamo di ricordarcelo. Allora, questo asfalto è stato studiato, l'additivo che compone questo asfalto è stato studiato con delle plastiche dure da recupero e del grafene. Quindi, plastiche dure che, se non ricordo male, sarebbero finite nel termovalorizzatore, altrimenti non avevano altro scopo. No, perché non erano riciclabili. Non erano riciclabili, infatti abbiamo studiato per più di 3 anni un processo che consentisse di recuperare questa frazione di plastica che altrimenti sarebbe stata smaltita nel termovalorizzatore. E quindi abbiamo superato le prime prove, adesso arriviamo a Fiumicino. Lì che tipo di richiesta c'è? Pensiamo noi di resistenza, vista il peso e la velocità degli aeroplani, cos'altro si va a verificare? Assolutamente la resistenza della pavimentazione, perché in questo caso era proprio una pista di atterraggio di voli intercontinentali, quindi veramente una sollecitazione della pavimentazione incredibile. Quindi in questo caso l'asfalto deve dare delle performance ottime e anche di sicurezza. Eh beh, certo. 100 metri e deve durare di più, perché non solo deve essere resistente, ma deve durare di più degli altri? Deve assolutamente durare più degli altri. Perché costa di più o per quale motivo? Senz'altro il costo iniziale è leggermente più alto rispetto all'asfalto tradizionale, però la durata deve essere almeno il triplo di quella dell'asfalto tradizionale. Bene. E questa c'è una buona notizia, soprattutto è una cattiva notizia per le buche, direi così. È una cattivissima notizia per le buche ed è una cattiva notizia magari per le manutenzioni continue. Ecco, vero, verissimo, verissimo. Ma senta, essere meno manutenzione. Ma le volevo fare una domanda che forse è una domanda stupida, ma alla fine di tutto il processo, questa plastica che noi mischiate al grafene, che fine fa? Perché non vorrei che fra 28 anni si scoprisse che quella plastica messa lì poi dopo fa male in futuro. Allora, e sicuramente ci avete pensato. Beh, ci abbiamo pensato tantissimo con l'università, con la Milano Bicocca, quindi prima all'interno della sperimentazione, durante tutte le prove e anche tutte le trial section che abbiamo fatto, l'università della Milano Bicocca ha fatto tutti gli studi ambientali, quindi ha verificato che non ci fossero eccezioni, che questa plastica non desse un impatto ambientale anche nel recupero poi della pavimentazione quando arriva al suo fine vita. Certo. Quindi abbiamo veramente studiato, ma perfino durante la produzione dell'asfalto, che questa plastica non desse emissioni durante la produzione dell'asfalto. Quindi certo, quello è stato un lavoro grandissimo. Ma questo asfalto si produce in loco? Cioè no, lo fate lì a Roma, per cui magari è anche un modo per aiutare la raccolta dei rifiuti urbani, o viene, dovete trasportarlo, cioè, dalla vostra proprio, sede? Proprio con le bottiglie, cioè, trovate lì? No, non sono bottiglie. No, stavamo scherzando. Con gli scarti locali, però, diciamo. Chilometro zero, quindi. Esatto, potrebbe essere proprio una cosa a chilometro zero. Cioè potrebbe essere una raccolta esattamente dell'area dove l'asfalto viene prodotto, perché l'asfalto, essendo un materiale caldo, deve essere prodotto vicino a, esatto, perché abbiamo in mente tutti che al luogo del consumo è un po', esatto, è un po' come la pasticceria. Ma le volevo chiedere una cosa, per quanto andrà avanti questa sperimentazione, quando si pensa che avremo dei risultati, quando avremo tutte le strade fatte da questo nuovo e straordinario asfalto? Ma quando avremo tutte le strade non... No, certo, non sta a lei. No, allora, volevo capire che cosa ci aspettiamo da questa, da che cosa vi aspettate da questa sperimentazione. Certo. Allora, la sperimentazione è finita, anche perché abbiamo fatto veramente, siamo alla settima sezione di prova, abbiamo provato anche in Inghilterra, nell'Oxfordshire, sempre su un'autostrada, quindi direi che la sperimentazione è finita. Tutti, quindi ora bisogna decidere. Se si quindi fa, adesso non bisogna fa decidere. E i dati sono tutti, da quello che capiamo, molto soddisfacenti. Devo dire che abbiamo avuto veramente degli ottimi dati, quindi adesso bisogna decidere e lasciamo la decisione ai decisori. Certo, giusto, giustissimo. Anche noi lasciamo, ovviamente, volevamo, sì, eravamo curiosi, visto che dopo il premio per questo prodotto, che è anche italiano, e 100%, esatto, 100%, che ha anche questi pregi ambientali di riciclare quello che non si ricicla, che altrimenti finisce termovalorizzato. Insomma, eravamo felici, diciamo, di dare questa notizia, di questo ulteriore sviluppo. Come diceva lei, adesso bisogna prendere delle decisioni e fare delle scelte. Ecco, sì, di lungo periodo. E io vi ringrazio moltissimo per, grazie questa, a lei, per questa possibilità. Grazie, grazie a Federica, grazie. Giannattasio di Iterchimica Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È il momento di tornare al nostro personaggio della settimana. Ci sono degli ascoltatori in attesa per intervenire e dirci la loro. Quindi iniziamo da Gianna, dalla provincia di Milano. Buongiorno Gianna. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, chi è che ha cambiato il mondo secondo lei? Il mondo, ma io ho sentito di questa settimana, quindi a me è venuto in mente una versione un po' buffa, così come il suo film. Io ho pensato subito a Checco Zalone, il suo film Immigrato. Checco Zalone, quindi la notizia tolo. Immaginiamo che sia l'incasso del film. Come abbia cambiato il mondo però ci incuriosisce. No, hanno cambiato, non so, vedere le cose così difficili, diciamo, parlare su questi discorsi dei immigrati, essendo anch'io immigrata. E lui ha fatto film veramente interessantissimo, in modo molto leggero e... non so, mi è venuto in mente questo. Va bene, va bene. Sentiamo il notaio. L'inflessibile notaio ci ricorda che Checco Zalone, seppur bravo, non ha cambiato il mondo. Grazie Gianna, grazie per aver telefonato. Allora, io direi che diamo agli ascoltatori ancora qualche minuto, poi diamo un indizio. Giusto, alle 9.30, se nessuno ancora l'ha indovinato, di quelli che si collegheranno, daremo il secondo indizio, ma magari ci arrivano prima e quindi ci fermeremo lì. Allora, altre proposte per il pianeta sono arrivate: Partenope, Asime Star, che non so, viene dal Veneto, scrive l'ascoltatore, io non so se lo dico bene. No, ma questo è straordinario perché in realtà è la traduzione veneziana dell'Asme Star che avevamo detto in bergamasco, anch'io sulla pronuncia sicuramente sbaglierò, ma però in più contiene star, quindi stella, e devo dire che è un inizio di collaborazione fra italiani, mi sembra molto, molto bello. Esattamente, poi c'è Arret, che sarebbe terra letto all'incontrario, e poi c'è anche Tellus. L'elenco si allunga, si e quindi sì. Io direi che la settimana prossima ci toccherà assolutamente contattare la NASA, chi chiamiamo, dai, per sottoporre questo elenco. I nostri due ricercatori napoletani. Direi che forse è più facile, c'hai ragione tu. Cambiamo argomento per il momento, 824 0024 per il quiz, e invece adesso parliamo di scuole. Scuole tra l'altro creative, nelle quali magari un nome per questo nuovo pianeta si può trovare, no? Perché Giampiero Monaca, che è maestro della scuola Rio Crosio di Asti, ha un progetto nella sua classe che si chiama Bimbi Svegli, e quindi bimbi anche, direi, con la lingua lunga. Che dice, maestro? Buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. Maestri, sì. da 2 anni, anzi da 3 anni, e quest'anno abbiamo traslocato a Serravalle d'Asti. Serravalle d'Asti. Una frazioncina a 4 chilometri da Asti, quindi diciamo che siamo, sempre dipendiamo dallo stesso circolo, ma siamo diventati una scuola di città in campagna. Ok, si chiama Serravalle o Ferravalle? Serravalle. Serra, sì. Ok. Così lo correggiamo. Giusto, giustissimo. Sennò, ma entriamo nella questione del metodo, perché è interessantissimo, sì, in realtà. Come funziona? Allora, l'abbiamo chiamato Bimbi Svegli proprio per dichiarare immediatamente le parti fondanti del nostro metodo. Perché bimbi svegli, in una parola sola, ne contiene due: bimbi e svegli. Bimbi è per riconoscere e dire proprio in modo spassionato che i nostri sono bimbi, cuccioli d'uomo, che quindi noi vogliamo accudire, riconoscendo a loro i bisogni emotivi fisici, i bisogni tattili, di scoperta, di gioco, in cui, una scuola in cui si gioca ancora moltissimo. Si fa tutto attraverso il gioco, ma niente per scherzo, come diceva Baden Powell. Certo. E la parte di svegli, invece, è quella del riconoscerli e farli praticare sin da adesso le loro funzioni di cittadinanza. Cioè, da una parte è un po' un trattenerli, mantenerli a cuccia, a cuccioli, ma dall'altra è dirgli: ehi, guarda che tu non sarai un cittadino domani, tu sei un giovane cittadino oggi. Quindi il far prendere posizione, far dire la loro e fargli sperimentare in molte occasioni anche proprio la loro utilità, che può essere la lettera al sindaco per chiedergli di spegnere le luci alle luminarie, perché magari abbiamo visto che molti bambini hanno il papà e la mamma in cassa integrazione, oppure scrivere al ministro di non mettere, non armare gli aerei che devono andare in Afghanistan per bombardare. Quindi non è solo una scuola di campagna, come abbiamo più volte sentito esistere in Italia. Non si tratta solo di andare nel bosco, di conoscere la realtà in cui ci si muove, ma si comincia anche a guardare verso il mondo e ai suoi problemi. Quindi la parola all'aperto diventa proprio aperta, diventa aperta la comunità, quindi abbiamo dei rapporti con la Pro quel paesino, eccetera, ma anche aperte ai migranti, perché per esempio di fronte a noi c'è una comunità, un CAS, e sono stati le terze persone che mi hanno offerto aiuto quando dovevamo tinteggiare la scuola. E sono rimasti lì. Probabilmente ne avremmo. E questo mi sembra anche molto educativo da ricordare agli stessi alunni. Cioè, chi ha tinteggiato? Quelli del casco di fianco. Non solo, abbiamo tinteggiato insieme. C'erano i piccoli, i genitori e i migranti. E adesso pensate che noi avremmo soltanto 3 rientri al pomeriggio, perché abbiamo un orario del genere, ma con una didattica così diffusa, così larga, abbiamo bisogno di fare scuola un po' di più. Certo. E non abbiamo il tempo pieno, perché è difficile farselo dare, allora abbiamo organizzato insieme ai migranti la scuola volontaria. Quindi 2 volte alla settimana noi torniamo a scuola tutti volontariamente, insegnanti e bambini, e i migranti che hanno chiesto in uso la scuola, e si fanno laboratori di inglese, si fa attività varie, anche di italiano, perché se un bambino di prima ha bisogno di imparare a copiare dalla lavagna, un migrante che sa a malapena qualche parola d'italiano, ma finché copiare dalla lavagna, certo, sa fare. Perché non farlo insieme? E lo facciamo insieme. Molto giusto. Io ti volevo chiedere una cosa, nel senso che da un lato ci sono cose veramente straordinarie, le ricordo anche cattedre, tavolini, camminare per materiale per la condiviso. Natura. Materiale condiviso che ancora giustamente ricorda Laura, che lo trovo una cosa straordinaria, perché è semplicemente il materiale è lì, non te lo devi portare da casa, e certo. Immagino che si impari un nuovo concetto di comunità e di possesso, nel senso che è di tutti, però è anche tuo, quindi impari a non rovinarlo. Io mi chiedo, quando escono da lì, poi l'impatto, perché purtroppo a un certo punto le elementari finiscono, giusto? È la domanda da $1 milioni che ci fanno sempre tutti. Io più o meno ho mandato negli anni alle medie 200 bambini, più o meno, che sono passati attraverso varie sfumature di questa modalità. E già questo è un dato, mi sembra. Insomma, non è che chi va dal maestro Monaca poi dopo si ferma alle elementari, vorrei sottolineare. Anche se magari, visto la situazione, ci resterebbe volentieri. Io mi fermerei subito, certo, però bisogna prima fare un percorso di studio, poi semmai tornare lì. Esatto. O tornare, come sono tornati alcuni, in alternanza scuola-lavoro. Certo, giustissimo. Giusto. Quindi si sono fatti il rientro su quella. No, allora, i nostri bambini, dopo questa attività che facciamo certamente con le mie colleghe, passano alle medie. Intanto sono bambini del mondo, quindi vanno tutti a calcio, a catechismo, a danza, chi va a fare un museo con mamma e papà, per cui non sono soltanto inselvatichiti con noi, ma hanno tutta una serie di attività che li mantengono comunque ben ben ancorati alla realtà, diciamo, tradizionale anche. In più ci vanno, dopo 5 anni di esperienza scolastica, oso dire estremamente positiva, divertente, accudente. Quindi arrivano a 11-12 anni con la schiena dritta. Io ho osservato personalmente con tristezza alcuni bimbi e alcuni ragazzini che sono già gobbi, sono già piegati. Abbiamo ricevuto, pensate, un bambino la settimana scorsa da una scuola perché scappava, perché gli era stato detto, terza elementare, tu non farai mai niente di buono nella vita. Ora, è molto chiaro, ma scusami, quello che stai dicendo è che anche tante altre scuole, anzi certi metodi terribili di altre scuole, in realtà non preparano alle classi successive, stai perché dicendo? Sapere quanti denti hai in bocca Tutankhamen, se il mesozoico viene prima del cenozoico. Non faccio domande troppo difficili, perché io non lo so quanti denti ha in bocca Tutankhamon. Ma noi chiediamo magari all'interrogazione, c'è qualcuno che chiede all'interrogazione quante penne aveva sulla testa Montezuma. Certo, insomma, una scuola nozionistica. L'ampiezza della storia. Certo. Io preferisco farli arrivare che a malapena fanno il nome dei re di Roma, ma che fanno confrontare la società dei faraoni con la piramide mesopotamica, con la, la società romana e con l'imperialismo. Certo, ma ascolta, io posso essere d'accordissimo con te, però quello che chiedevo è che comunque c'è un certo standard e quindi nel momento che tu arrivi in prima media, scusate che poi sbaglio, arrivi in prima media, mi chiedevo, ci sono delle reali difficoltà o in realtà chi fa la scuola bimbi svegli, da come so, va benissimo, anzi spesso va meglio degli altri, questo la volevo capire. Me la danno le famiglie, dicono, sì, hanno avuto il solito scossone che hanno tutti quelli delle medie di due mesi e poi partono e vanno. Perfetto, perfetto. No, è chiaramente è un sistema diverso che vuole, diciamo, appunto attivare, no? Svegliare l'attenzione e non ingabbiare fin dall'inizio l'entusiasmo dei bambini, perché poi alla fine a scuola ci si va con un po' di paura ma anche con un po' di entusiasmo in prima elementare. Con molto entusiasmo. Se tu calchi sulla paura fai poco, ecco. D'altronde i cuccioli di tutti i mammiferi apprendono se c'è il gioco e l'entusiasmo. Perché proprio i nostri devono andare facendo i seriosi, se non i altro. Seriosi, esatto. Maestro, grazie mille. Molto bene. Grazie mille. Allora, buon lavoro, buona scuola. Domani si riparte, è lunedì. Io vorrei collegarmi con un ascoltatore che è in linea da un pochino perché vuole partecipare al quiz, il cui nome è Usang. Dico il nome dell'ascoltatore. Buongiorno, Usang. Buongiorno. L'ho detto bene? Ce la faremo prima o poi. Dalla provincia di Viterbo, lei vuole partecipare al quiz. Chi è secondo lei il personaggio della settimana? Guardi, io penso Steve Jobs. Come mai? Cosa c'è di notizia legata? Veramente in questi, io ho 68 anni, ho visto in questi 20, ultimi 20 anni completamente cambiato proprio il modo di comunicare. Ormai non c'è nessuno che va in giro senza un tablet, l'iPhone. E quindi lei dice Steve Jobs. Secondo me sicuramente uno dei personaggi, non so se è il vostro personaggio, ma sicuramente uno dei personaggi che ha cambiato il mondo. Guardi, adesso fra un attimo sentiamo un il notaio. Possiamo dire che in qualche modo ci è arrivato vicino, ma anche se non ha indovinato, ma se nessun altro dovesse indovinare, credo che le verranno assegnati i biglietti d'ufficio. Va bene. Resti in ascolto. La ringraziamo. Grazie. Abbiamo una pausa, buongiorno. Tra poco. Buongiorno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltatori in attesa di partecipare al quiz sul personaggio della settimana, diamo subito la linea a Lorenza da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora sentiamo un po'. Sto ballando questa canzone, per questo che sono così euforico. Prego. È beato lei, Carlo. Grazie. Senta, io avevo pensato un personaggio ma ho cambiato idea. Posso? Ha cambiato idea. Non lo so, dopo tu sei l'esperto, consiglio. Hai la storia di questo. Si è arrivata secondo. Sì, può cambiare idea, sì. Bene. Dai. Diciamo allora che lei può cambiare idea. Posso? Dica, sì. Bill Gates, perché ha detto che vuol pagare le tasse, quando mai? È mai successo. Beh, intanto ci sembra stupenda questa risposta. Sentiamo il notaio. No. No. Non è Ricordiamo che le abbiamo permesso di cambiare nome, che in teoria non è. Però le posso dire che non era giusto neanche quello di prima, perché io l'ho letto qua sullo schermo. Non quello, era giusto? Neanche quello che aveva scelto prima, quindi non resti nel dubbio, era meglio. No. Tutto corretto, a parte che ha perso, e ci spiace moltissimo. Grazie di aver chiamato. Grazie Lorenza, buona giornata. Allora, restiamo in tema di scuole, ma cambiamo regione, cambiamo anche gruppo d'età, perché andiamo alle medie artigianali, che è un esperimento della Valle d'Aosta, ed è in collegamento con noi Chantal Sertan, assessore alla istruzione, università, ricerca e politiche giovanili della regione, appunto, Valle d'Aosta. Buongiorno. Buongiorno Laura. Buongiorno assessore. Allora, buongiorno. Voi ci spunto, cambiamo dalle primarie, andiamo invece ai ragazzi più grandi, le medie però. Le facciamo tutte, lentamente arriviamo fino all'università nei boschi. L'università dei boschi potrebbe una cosa che la regione Valle d'Aosta potrebbe serenamente ospitare. Giusto. Stiamo trattando di boschi, non ancora in campo universitario, ma ci arriveremo. Ci arrivate, bene. Ottimo. Allora, cosa fanno le medie artigianali, appunto, questa sperimentazione che avete voi da quest'anno scolastico? Sì, dal secondo quadrimestre partirà questa attività di sperimentazione per quest'anno, che in qualche modo ripercorre un po' l'idea delle SMIM, le scuole medie di indirizzo musicale, che hanno dei momenti di approfondimento e dei rientri pomeridiani proprio specifici sulla musica. Nello stesso modo, avendo noi partecipato da diversi anni, avendo la possibilità di lavorare in sinergia con l'IVAT, che è l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, e che quindi e diversi musei legati all'artigianato, collaborazione proprio con l'assessorato finanze di lancio attività produttive artigianato, abbiamo organizzato questi momenti di approfondimento per i ragazzi delle scuole medie, che hanno diversi obiettivi. Da una parte sicuramente quello di recuperare, di promuovere i saperi artigianali, legandoli proprio il più possibile alle discipline scolastiche. Io penso che abbiamo bisogno di un recupero anche delle attività manuali. I nostri ragazzi sappiamo che molto del sapere passa anche attraverso l'attività manuale e il lavoro manuale, quindi questo è sicuramente un'occasione. È anche una, non solo sapere la tradizione, ma anche proprio un'occasione di lavorare anche su se stessi, no? Il coordinamento mani, occhi, quel risultato, tante cose che non si fanno più, almeno si fanno molto meno rispetto al passato, no? Anche la costruzione di giochi, giocattoli, che era più tipica dei decenni scorsi, adesso si trova tutto fatto. Non li vedono più fare nelle famiglie, cosa che invece per noi era una cosa abituale. Io ho avuto nonni che lo facevano abitualmente, scolpivano, mio papà è falegname, per cui per noi era l'attività manuale, era un qualcosa che faceva parte dell'attività quotidiana, era nella nostra vita. E ma sempre senta, di meno, ma l'obiettivo, i ragazzi lo sono. La cosa che mi chiedo è l'obiettivo è perché comunque fare delle cose pratiche è molto educativo, ti insegna appunto a trasformare il pensiero semplicemente teorico in quello pratico, o è anche per formare dei falegnami ed è per formare degli artigiani, perché o per suggerire che esiste anche quella via. Esatto, perché giustamente lei dice mio nonno faceva il falegname, o mio padre, mi scusi, no, e comunque però forse c'è meno bisogno di falegnami oggi, ci sono meno falegnami, sì, e molti di questi faranno tanto, gli ingegneri. Qua non è neanche tanto indirizzare verso una professione, quanto piuttosto approfondire anche legati all'arte, perché poi per scolpire bisogna avere veramente un senso artistico e approfondire anche in modo diverso. Il legno si lavora in un certo modo, i tessuti, chiaramente qui parliamo di due progetti che sono nati nelle scuole medie, una della Valdigne Mont Blanc e una del Grand Combin nel presso di Varinai, verso il colle del Gran San Bernardo, che va verso la Svizzera. Quindi sono due valli diverse dove la scuola media approfondirà due tematiche che sono molto legate al territorio. Nella Valdigne Mont Blanc in particolare il restauro pittorico e quello ligneo, quindi del legno. Mentre per quanto riguarda la Grand Combin, che ha una tradizione molto forte di carnevali alpini, sì, e di costumi dove veramente ci sono ancora attività laboratoriali di sartoria che fanno proprio inseriscono e cuciono perlina per lina, paillette per paillette, fiore per fiore, con tutti gli specchietti sui cappelli delle maschere. E chiaramente si approfondirà anche un qualcosa che loro vedono però nel territorio, che ha un senso nel territorio. Quindi ecco, è un tentativo anche di riconnettersi alla propria tradizione, se vogliamo. Certo, certo. Ma quante scuole sono coinvolte? Nel senso che, se abbiamo capito bene, è un progetto regionale. Quindi che ci però chiedevamo... anche diramazioni sul Piemonte e altre regioni del sud, sì, ho letto, Puglia, sì, e Campania. Quindi la Valle d'Aosta ha firmato dal 2010 la Carta Internazionale dell'Artigianato, che è un progetto, diciamo, nazionale, appunto, e fanno parte, lo ha siglato soprattutto con l'assessorato, appunto, che si occupa in particolare di attività produttive e artigianato. E infatti io col collega Renzo Testolin abbiamo proprio portato avanti questo lavoro insieme alla sovrintendente agli studi Marina Frey e alla direttrice dell'IVAT Nuri Donatoni, che in qualche modo ha seguito questi progetti e in particolare un po' la nascita di questa idea proprio di dar vita ad un nuovo percorso formativo legato all'artigianato. Io vi devo dire la verità, anche noi siamo come assessorato e con la sovrintendenza lavorando su un percorso un po' più anche più come di indirizzo, che non sia solo quello musicale nelle scuole medie. Certo. È chiaro che l'indirizzo musicale permette di avere delle ore in più, soprattutto nel pomeriggio, quindi dei rientri pomeridiani, dove i genitori in qualche modo sono tranquilli perché i ragazzi sono a scuola e in qualche modo stanno facendo un progetto che è sicuramente scolastico, ma che non è prettamente solo legato a, ma è chiaramente legato a un progetto più musicale. Ecco, stiamo pensando che potrebbero esserci anche le possibilità di altri percorsi. Uno potrebbe essere questo più legato all'artistico, diciamo, a un percorso artistico, e l'altro potrebbe anche essere quello legato a un indirizzo, a un percorso sportivo. Cioè di iniziare quindi, diciamo, una sperimentazione sulla questione artigianale, ma poi capire se queste ore che si dedicano all'artigianato possono in altre essere incrementate. Possono essere incrementate e soprattutto in un indirizzo, andare in un altro indirizzo, quindi sportivo, quindi musicale, giusto? Certo, e questo avrebbe anche un senso perché comunque sopra poi abbiamo degli istituti artistici, abbiamo un istituto musicale, abbiamo il liceo artistico, e quindi potrebbe anche avere un senso poi per in qualche modo coinvolgere i ragazzi già in un percorso che poi chiaramente possono scegliere o possono cambiare, però in qualche modo li coinvolge anche nelle ore pomeridiane. Certo. Perché sappiamo che le scuole medie da noi, altrimenti l'orario scolastico, a parte appunto alcuni rientri pomeridiani, però sono fino alle 13:20, e quindi è chiaro che dopo si pone anche un problema di accoglienza, che sia un'accoglienza chiaramente formativa e che abbia un senso e una integrazione nella cultura del territorio. Per noi l'artigianato è un qualcosa ancora di molto vivo che i ragazzi hanno, non più come una volta, ma che hanno ancora nella loro quotidianità. Possono... Molto giusto, e magari è anche il momento giusto di recuperarlo anche per la questione del turismo, e quindi mi sembra... le professioni del futuro. Esatto. Grazie mille. Io credo tra l'altro che i laboratori siano proprio i laboratori artigianali e le botteghe siano proprio il futuro per la nostra società. Noi aspettiamo la Fiera di Sant'Orso il 30-31, che è proprio l'esposizione di tutto quello che ci siamo detti adesso, perché è proprio l'arte dei nostri artigiani, e quindi anche quest'arte che non è stata mai strutturata, ma che è passata da generazione in generazione, proprio nella scultura del legno. Giustissimo. O della pietra, forse eccetera. Ne ha saltata una di generazione e in realtà adesso va recuperato. Quindi sì, ragazzini, la ringraziamo molto, la dobbiamo salutare. Grazie. E veniamo a trovarvi il 30 e 31. Grazie, Adonta, assessore, grazie. Chantal Sertan della regione, appunto, Valle d'Aosta. Abbiamo un pochissimi secondi, ma proviamo a collegarci con Cosimo dalla provincia di Chieti, che ha chiamato per il quiz. Buongiorno Cosimo. buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, sentiamo un po' se tutto quello che abbiamo detto fino adesso le ha suggerito la risposta corretta. Chi è il personaggio? Allora, per me è Greta Thunberg. Greta Thunberg. Anche questa settimana ha qualcosa di legato a lei, cosa ricorda? Mi ricorda naturalmente che questa ragazzina sta cambiando il modo di pensare, il modo di agire e fa riflettere noi generazioni che quello che è stato fatto non è servito a nulla e che bisogna migliorare, bisogna fare tanto per migliorare l'ambiente. Sentiamo, sentiamo il notaio prima della viabilità così. Non è un commento su Greta Thunberg, ma ovviamente, ma è sul fatto che la risposta non è corretta. Esatta, però grazie di aver ricordato. Diamo un secondo indizio. Io credevo che quello che era venuto fuori con il nostro ascoltatore precedente fosse sufficiente a indirizzare. Subito il secondo indizio: il nostro personaggio, oltre ad aver cambiato il mondo, fa parte della vita di tutti noi. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E voilà, ci siamo. Tu però hai smesso di fare la danza e vabbè, io me ne dispiacerò la per sempre. La faccio un po' più dentro. La fai dentro, non c'è neanche la telecamera, potresti farla hai serenamente, ragione, insomma, ragione. Questo programma da è domenica per prossima rinizio la danza su questa bellissima musichina dei L'altro pianeta. L'altro pianeta è il premio che noi attribuiamo ogni settimana a qualcuno, qualcosa, azienda, ideatore, creatore che si è impegnato per migliorare per l'appunto questo pianeta sul quale viviamo. Ed oggi abbiamo in collegamento con noi Lorenzo Guglielminetti, che è il coordinatore del progetto Focus. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, progetto che prevede di utilizzare i mozziconi di sigaretta come base per coltivazioni di piante. Tutto questo accade a Capannori, c'è un'interazione, no? di competenze. Il comune di Capannori è nella provincia di Pisa. No, noi come dimenticarlo, avendo noi sentito spessissimo Ercolini che da lì viene. Comuni quindi virtuosi, eccetera, esatto, eccetera. Esatto. Allora, invece appunto qui adesso c'è anche la base per il progetto Focus, però chiediamo a lei, Guglielminetti, di spiegarci un po' di più come si sviluppa e che obiettivi ha. Sì, in realtà Capannori è in provincia di Lucca. Nonostante questo, tutto questo errore perché pensavo all'Università di Pisa, sa? Esatto, che è coinvolta. Appunto, siamo Università di Pisa, il Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e l'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi del CNR. Sì, questo progetto è nato dal fatto che camminando per la strada quotidianamente ognuno di noi può osservare una quantità smisurata di mozziconi di sigarette, che rappresenta il 30-35% del rifiuto visibile in ogni città del mondo. La qualcosa ovviamente è appunto sotto gli occhi di tutti. E a un certo punto ci siamo posti il problema di come poter risolvere in qualche modo questo problema. Come poter risolvere la situazione che è un problema antichissimo e annoso, direi, anche per le spiagge, lo ricordiamo, almeno di solito si dice i mozziconi di sigaretta per degradarsi ci mettono 50 anni, qualcuno dice 10, no. Insomma, quindi è un problema grosso, è un problema enorme, è un problema che rappresenta considerate che al mondo ogni anno vengono buttati qualcosa come migliaia di miliardi di mozziconi di sigaretta. A Roma ogni giorno se ne buttano 18 milioni per le strade, 18 milioni di mozziconi, per non considerare appunto considerando poi anche tutto l'ambiente esterno alle città, è chiaro che il problema è gravissimo. 50 anni forse sono troppi per degradare un mozzicone di sigaretta, diciamo tra i 5 e 10 anni è la realtà. E quindi il problema è prima di tutto toglierli dall'ambiente. Per toglierli dall'ambiente ci vuole una raccolta consapevole, ci vuole una popolazione che decida appunto di non buttarli più per terra, ma di raccoglierli in modo differenziato. Cosa che succede in alcune parti del mondo. Io ho vissuto 2 anni in Giappone non c'è un mozzicone di sigaretta per terra. Il problema è che poi questi mozziconi di sigaretta devono comunque essere smaltiti, sono un rifiuto tossico. e normalmente vengono termovalorizzati, che non è esattamente, diciamo, la strada migliore, almeno secondo noi. Si possono valorizzare molto di più. È più vicina alla peggiore, direi. Esattamente, sono d'accordo. E quindi l'idea, siccome lavoriamo sulle piante, con le piante, siccome lavoriamo sulle piante anche in coltura idroponica all'interno delle serre, ci è venuta l'idea di pensare di utilizzare questi mozziconi di sigaretta per far crescere dei vegetali. Quindi l'idea è nata più o meno in questo modo. Poi, se volete, posso scendere un pochino più nel dettaglio del progetto. Ma la cosa che le volevo chiedere è: ma il filtro di sigaretta è una fibra di vetro, giusto? No. Di cosa è fatto? La fibra di sigaretta è essenzialmente fatta di acetato e di cellulosa. La cellulosa è una molecola comune nelle piante che viene poi chimicamente trasformata in acetato di cellulosa. Di per sé, da un punto di vista chimico, non è particolarmente tossica. Ah. Il suo problema è la persistenza nell'ambiente. Cioè, un materiale solido che viene, mangiato dagli uccelli sulla spiaggia del mare, che rimane appunto nell'ambiente e non si degrada molto lentamente. Il problema, le tossine non sono tanto nell'acetato di cellulosa, che è il filtro vero e proprio, ma sono tutti residui della combustione, idrocarburi, tutto quello che rimane nel tabacco bruciato, la carta medesima, è inquinante anche lei. Però sono tutti comunque biodegradabili, quindi poi anche a questo abbiamo pensato. Ma e le faccio una domanda che forse è sbagliata su questo tipo di cose. Nel senso, come mai non si producono dei filtri per sigaretta che siano biodegradabili? Perché lei deve pensare che la sigaretta poi deve essere conservabile per essere poi stoccata e venduta. Se il filtro fosse biodegradabile, ci sarebbe il rischio che il prodotto, la vita media del prodotto sarebbe molto più corta e per il produttore evidentemente ci sarebbero molti più problemi. E quindi io immagino, anzi sicuramente questo è uno dei motivi per cui il filtro è così persistente. Poi è un prodotto a basso costo e quindi tutto questo fa sì che si continui, anche se esistono dei tentativi di produrre filtri biodegradabili, completamente biodegradabili, ma costano molto di più e quindi chiaramente da un punto di vista economico non rende. Allora, ma quindi lì come funzionerà? Si raccolgono differenziati, quindi a questo punto, e voi sperimentate questa coltivazione per la quale il filtro, diciamo, è un vantaggio, è semplicemente un substrato qualunque che di solito si usano altre cose, adesso si userà questo? Dunque, il filtro normalmente si usano altri materiali, tipo ad esempio la lana di roccia. Il filtro, dal nostro punto di vista, almeno la parte solida del filtro, la parte, quella dura del filtro, quella bianca, dovrebbe essere utilizzata e sarà utilizzata ed è utilizzata in questa fase sperimentale al posto della lana di roccia che è tipicamente usata nelle colture idroponiche. Cioè, di fatto si tratta di creare qualche cosa che assomiglia a una spugna, che sia inerte, che quindi non interferisca con la vita di una pianta e che però sia in grado di trattenere soluzioni nutritive che poi saranno il cibo delle piante medesime che cresceranno su questo substrato. Cosa che si fa normalmente in serra, normalmente la si fa su lana di roccia o altri materiali inerti di questo tipo, che poi però diventano uno scarto anche quello ovviamente da eliminare. E noi in questo modo riusciremo a recuperare i filtri di sigaretta tolti dall'ambiente, raccolti inizialmente dai cittadini di Capannori, comune appunto molto particolare, molto sensibile a queste tematiche. Verranno poste dei contenitori trasparenti davanti agli esercizi commerciali, essenzialmente di ristorazione del comune, e verranno raccolti questi filtri di sigaretta. Dopodiché i filtri banalmente vengono termotrattati, cioè bolliti in un po' di acqua, per intenderci. La parte di tabacco combusto in combusto e la carta, a quel punto diventa una sorta di poltiglia brutta e maleodorante. Ne parliamo poi tra un attimo di che fine farà questa poltiglia. Il filtro a quel punto viene cardato, trasformato in substrato e viene usato per crescerci le piante. Quella poltiglia maleodorante viene data da mangiare a delle microalghe che sono perfettamente in grado di crescere su questa poltiglia, purificare l'acqua che rimane in questa poltiglia crescere, appunto, creare biomassa e dalle alghe, come è noto, si può ottenere biodiesel e quindi il ciclo si chiude in qualche Fantastico. Modo. Fantastico, grazie molte. Dobbiamo salutarci. Lorenzo Guglielminetti, Università di Pisa, ci aggiornerà poi in futuro su come va questo progetto. Abbiamo un altro ascoltatore in linea che è Francesco da Torino per indovinare il quiz e quindi vogliamo dare a lui la possibilità, gli ultimi 30 secondi per portarsi a casa i famosi biglietti, se ci riuscirà. Sentiamo un po'. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Francesco, ho pensato all'iPhone, perché questa è la settimana del CES di Las Vegas, Apple tornava dopo molti anni a questo evento e poi ho trovato una correlazione con Steve Jobs, che l'altro ascoltatore aveva indicato. Ma qual è la notizia legata all'iPhone? Ho letto che Apple parlava di privacy, ma non ho approfondito. Okay. Non ho la correlazione. Ok, notaio, cosa dite là? Dicono di sì. Dicono di sì, anche se la motivazione non è propriamente quella. Perché è anche il compleanno. Ma la risposta è giusta. È il compleanno dell'iPhone, 13 anni. Il 9 gennaio del 2007 è nato l'iPhone e quindi in questa settimana c'era il compleanno. Ha sicuramente cambiato il mondo, ce l'abbiamo tutti in mano. Parliamo di iPhone, intendiamo ovviamente smartphone. Ed è così. Molto ed bene, complimenti. Così, si è portato così, a casa i due grazie, biglietti. Ringraziamo anche l'ascoltatore Usang che aveva dato così, aveva acceso la lampadina aiutando un po' c'ha. Tutti e è il momento di salutarci, quindi grazie a Peter.